No, una brevissima premessa per dire che questa relazione è stata pensata come comunicazione che si integrasse, insomma, con le relazioni che hanno trattato del problema, del concetto e della realizzazione dello stato di diritto. Perché la nozione di interesse pubblico, che io ho cercato di, ovviamente, di limitare molto ad un dibattito specifico, e nel dibattito amministrativo austriaco ha a che fare con quelli che Cianfrallotti diceva, poi sono i tre cardini del concetto di Stato di diritto, e cioè, cioè soprattutto rispetto al principio di legalità e al principio di generale azionabilità delle pretese del cittadino rispetto all'amministrazione. Nello specifico, sul concetto di interesse pubblico, in generale il concetto di interesse pubblico nel pensiero giuridico e politico tedesco dell'Ottocento si lega in primo luogo con la costruzione della personalità giuridica dello Stato, a partire dalla prima formulazione di Albrecht fino ad arrivare a Jellinek. L'interesse pubblico è uno strumento attraverso il quale viene costruito e viene, per così dire, insomma, e si rende necessaria la personalità giuridica dello Stato. Jelinek, ad esempio, dichiara, per distinguere diritto pubblico e privato, dice che bisogna accertare il rapporto di finalità che le norme di diritto pubblico hanno con gli interessi umani. Qualunque diritto pubblico esiste nell'interesse generale, il quale è identico con l'interesse dello Stato. E questa è una formulazione che si trova nel sistema di diritti pubblici soggettivi. I nessi tra queste due costruzioni sono in questo senso, che la necessità della persona statale viene evocata dall'idea di interesse generale, il quale poi a sua volta esprime il contenuto della volontà dello Stato persona. Di conseguenza, personalità dello Stato che esprime questa idea di interesse generale, che a sua volta si traduce in un interesse pubblico che forma poi il contenuto o il fine del potere dello Stato. Dietro questi profili generali in cui l'interesse pubblico ha soprattutto funzioni di legittimazione, l'interesse pubblico ha un campo di riferimento molto più ristretto ed è in relazione al diritto amministrativo, nel senso che il concetto di interesse pubblico si inserisce nella costruzione e nella delineazione dei caratteri del diritto amministrativo, incidendo sia sulle concettualizzazioni dogmatiche che sulla concreta elaborazione degli istituti. La mia riflessione si inserisce in questo ambito limitando la sua attenzione ad alcuni aspetti di questa vicenda e in riferimento al contesto dell'Austria monarchica. La Frage des öffentlichen Interesse al centro della giuspublicistica austriaca di fine Ottocento è infatti in diretto riferimento alle riforme della giustizia amministrativa del 1875 e sul piano dogmatico all'elaborazione dei caratteri della discrezionalità amministrativa. Questa riflessione mi sembra rilevante perché a partire dalla peculiarità dell'esperienza giuridica austriaca si delinea secondo vistose alternative concettuali rispetto alla vicina elaborazione tedesca, inserendosi così, essendo stata poi rivalutata successivamente, all'interno della vicenda generale della costruzione dei caratteri del diritto amministrativo. La riflessione sulla discrezionalità e il ruolo che l'interesse pubblico ha in riferimento alla sua definizione e alla possibilità del sindacato giurisdizionale, seppure può apparire limitata e apparentemente tecnica, si collega direttamente, come vedremo, alla costruzione di un'amministrazione di garanzia che incide direttamente sui profili definitori del diritto amministrativo. Incide in modo particolare su questi aspetti. In primo luogo, la riflessione sulla discrezionalità si inserisce direttamente nel dibattito sul significato del principio di legalità nell'amministrazione. Individuare infatti nella discrezionalità la espressione della libertà amministrativa e dell'indipendenza degli apparati, o al contrario, determinare anche in questo ambito elementi normativi che delimitano lo spazio di decisionalità degli apparati, ha un riscontro diretto sul rapporto tra legge e amministrazione. Dietro il contraddittorio combinarsi nel sistema pubblicistico dei principi di preminenza e riserva di legge, la discrezionalità si pone in questa fase in quanto relazione specifica dell'atto amministrativo con la legge come ambito privilegiato dell'attività amministrativa non vincolata. Questa caratterizzazione ha un immediato risvolto costituzionale. La discrezionalità diviene il veicolo dogmatico attraverso il quale tradurre nella concretezza degli istituti giuridici il postulato dell'autonomia dell'amministrazione, la sua impermeabilità alla penetrazione del dato normativo, e attraverso la diretta dipendenza dell'attività amministrativa dall'esecutivo monocratico della centralità del principio monarchico nei sistemi costituzionali. In secondo luogo, la possibilità del sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa discrezionale si inserisce nel rapporto tra potere e cittadino e determina nella dialettica tra autorità e libertà una precisa scansione del rapporto tra potere e diritto. Limitare infatti le possibilità di tutela solo ad una serie di situazioni giuridiche fondamentali, nelle quali il cittadino consegue un diritto pubblico soggettivo nei confronti dello Stato, determina una costruzione in cui all'affermazione del vincolo giuridico corrisponde la rivendicazione della libertà dal diritto per l'amministrazione. Ma soprattutto questa dinamica esprime una concezione che, come ha scritto Cassese, ai limiti dei diritti dei privati fa corrispondere l'illimitata sovranità dello Stato. La costruzione del rapporto amministrativo trova cioè la sua origine nell'idea della diseguaglianza giuridica dei soggetti parte del rapporto stesso, fissando in modo preciso la posizione di sudditanza del cittadino nei confronti del potere pubblico. La costruzione del sistema, in questo senso, viene basata sull'intreccio contraddittorio tra prerogative e privilegi dell'amministrazione da una parte e garanzie dall'altra, in cui si conferma la visione del potere amministrativo come potere autonomo ed originario, sulla base sia, come abbiamo accennato, della sua indipendenza dalla legge che della propria autolegittimazione in riferimento alla qualità pubblica delle sue attività e dei suoi scopi. Infine, come terzo aspetto di questi profili generali, la riflessione austriaca con la delineazione del procedimento amministrativo incide direttamente sui caratteri della forma giuridica che assume l'attività amministrativa, e cioè sull'atto amministrativo. La centralità dell'atto, come costrutto che sintetizza la pluralità dei compiti dell'amministrazione, è infatti espressione di un particolare equilibrio tra pubblico e privato. Il simbolo della specialità amministrativa, la forma giuridica peculiare delle manifestazioni di volontà degli apparati amministrativi. L'atto, come istituto amministrativo per l'eccellenza, si basa infatti su una precisa determinazione dei confini tra autorità e consenso, e quindi su una chiara delimitazione degli statuti giuridici applicabili all'azione degli apparati. Il sistema fondato sull'atto è cioè strutturato secondo partizioni nette, secondo dicotomie rigide, da una parte il regno pubblico della Hoheitlichkeit, dell'autorità e dell'interesse generale, dall'altra il mondo dell'autonomia privata, del consenso e degli interessi particolari, due dimensioni incomunicabili formalizzate in due distinte e diversissime forme giuridiche. L'atto amministrativo, appunto, è il contratto, che è espressione invece di bilateralità e paritarietà dei soggetti. L'introduzione del procedimento amministrativo, seppure in questa prima fase determinata da esigenze prevalentemente garantistiche, si pone all'interno di una riflessione che registra la perdita di tenuta di un modello fondato su una rigida distinzione tra autorità e consenso e in prospettiva come strumento per una diversa descrizione teorica dei fenomeni amministrativi. Concludo brevemente questa parte generale. La riflessione sull'interesse pubblico si pone in questa vicenda sia come fattore condizionante che condizionato. In relazione agli aspetti che abbiamo delineato, esso si pone in primo luogo in quanto soprattutto causa dell'attribuzione della discrezionalità e fattore determinante dei caratteri della discrezionalità amministrativa, costituendo anche veicolo di esenzione all'interno dell'attività cosiddetta vincolata. Nel senso che anche dove ci si trova di fronte ad attività vincolata per esigenze di interesse pubblico non necessariamente si devono rispettare i vincoli della legge. In secondo luogo, attraverso la identificazione tra interesse pubblico e scopi dello Stato si delinea la sua supremazia sia rispetto al dato normativo che ai diritti e agli interessi soggettivi. Infine, all'interno di questo valore supremo che viene dato all'interesse pubblico, emerge un preciso schema di individuazione delle evenienze di interesse pubblico che trova la sua esclusiva definizione all'interno dell'amministrazione monarchica. E d'altra parte un fattore condizionato perché l'analisi della trasformazione dei suoi caratteri e del suo ruolo deriva direttamente dall'analisi della trasformazione dei compiti e della decisione amministrativa. Il nostro tentativo odierno si situa in quest'ultima prospettiva. Cercheremo di mostrare come l'elaborazione di un'amministrazione legata ai principi dello Stato di diritto e della garanzia si collega alla individuazione delle trasformazioni del concetto di interesse pubblico e della attività amministrativa. Bene, adesso non leggo più perché sennò duro tre quarti d'ora, se non di più, e faccio una breve sintesi della ricostruzione del dibattito dogmatico sulla questione della Frage des öffentlichen Interesse, che è legata soprattutto nel dibattito austriaco, come dicevo, a queste riforme del sistema di giustizia amministrativa, che per quanto riguardava la competenza del tribunale amministrativo prevedeva l'articolo 3 il fatto che il tribunale amministrativo non fosse competente nei casi nei quali l'amministrazione è investita di un potere discrezionale nella misura in cui questo potere le è conferito. Ecco, a partire da questa determinazione che replica insomma, in maniera non particolarmente innovativa, seppure vi sono delle differenze, quelle che sono le elaborazioni della dottrina francese per quanto riguarda la discrezionalità, si sviluppa un dibattito tra Bernatzik e Tetzner, nel quale Bernatzik fornisce una interpretazione del concetto di interesse pubblico e della discrezionalità, per la quale questa clausola di esclusione della competenza del tribunale viene confermata, e Tetzner invece che sviluppa una riflessione in un testo che si chiama appunto Lehre von den Freien Ermessen der Verwaltungsbehörden als Grund der Unzuständigkeit des Verwaltungsgerichte, in cui vi è una diversa elaborazione dogmatica della discrezionalità e in cui si tenta di restringere questa clausola. Una sintesi velocissima di questo dibattito dogmatico, che sarà comunque anche alla base della riflessione sulla discrezionalità in Germania, per quanto riguarda soprattutto le tesi di Tetzner. Bernatzik sostiene sostanzialmente questo: l'attività dell'autorità amministrativa è come l'attività di un giudice e di conseguenza è quella dell'applicazione del caso singolo, dell'applicazione al caso singolo di quanto è previsto dalla norma generale. In questo senso l'attività dell'autorità amministrativa per Bernatzik è uguale all'attività di un giudice ed è soprattutto un'attività di tipo teorico e non interpretativo e non decisionale. L'amministrazione realizza direttamente un interesse pubblico, per Bernatzik vale allo stesso modo questa norma generale che deve essere interpretata volta per volta e che è condensata in una frase che è quella, cioè agisci in conformità di quanto viene richiesto dall'interesse generale. Per quanto riguarda Tetzner, invece, la discrezionalità non concerne tanto il giudizio sull'esistenza e sulla qualificazione del fatto, ma sussiste piuttosto nei soli limiti in cui il diritto deve giudicare indifferente l'adozione di questa o di quella misura. La scelta di questa o di quella soluzione in concreto possibile ed egualmente riconducibile alla fattispecie reale della norma. In questa formulazione, cioè da parte di Tetzner, sul presupposto dunque che la discrezionalità rappresenti una decisione e non tanto un giudizio interpretativo, e dunque non sussista senza vincoli giuridici, ma al contempo che nessun vincolo giuridico determini pienamente l'attività amministrativa, ne deriva la necessità di attribuire al giudice dell'amministrazione il potere di riesaminare l'intera operazione di applicazione del diritto compiuta dall'autorità. Non esclusa da questa l'attività di giudizio sul fatto e di completamento soggettivo del margine libero lasciato all'amministrazione dalla norma giuridica imprecisa, esercitando, e questa è già una significativa innovazione, sul lato amministrativo un sindacato di legittimità e non più di mera legalità. Di questo dibattito, che mi sembra interessante, c'è da segnalare un profilo particolarmente significativo, che nonostante le diversità esprime una volontà unitaria e rappresenta un lascito concreto e preciso per l'elaborazione successiva austriaca che poi si concreterà nella Rhein-Rechtslehre. Nella polemica tra Bernatzik e Tetner e nella diversità degli approdi interpretativi che la contraddistingue vi è anche una importante e comune conclusione di ordine teorico, cioè il fatto che nella libertà discrezionale non si può individuare il criterio nel quale distinguere giurisdizione e amministrazione. Emerge cioè la necessità di distinguere libertà da discrezionalità e quindi di individuare gli elementi normativi che delimitano gli spazi decisionali degli apparati. Come affermazione, come piena affermazione, come possibilità della piena affermazione del principio di legalità. E questa è una prima peculiarità della riflessione austriaca, nel senso che c'è questa unificazione delle due funzioni dello Stato, cioè da una parte l'amministrazione e la giurisdizione, per quanto riguarda la legge, vengono viste entrambe come funzioni esecutive della legge, ponendosi in questo senso all'interno di un modello costituzionale estremamente preciso, in cui gli elementi della monarchia costituzionale, in cui spettava l'amministrazione una autonomia che per quanto riguarda la costruzione giuridica si concretizzava appunto nella discrezionalità, venisse invece ricondotta alla legge. Un ulteriore aspetto è in cui ovviamente insomma fossero rafforzati gli strumenti, le possibilità di garanzia per quanto riguardava il cittadino. Un'ulteriore applicazione di questi che sono modelli giurisdizionali della pubblica amministrazione si ha attraverso la proposta da parte di Tetner di introduzione del procedimento amministrativo. Sempre la legge istitutiva del Verwaltungsgerichtshof prevedeva al paragrafo 6 che il tribunale amministrativo potesse sindacare la legittimità degli atti amministrativi anche wegen Mangelhaften Verfahrens, introducendo così, anche se all'interno di una costruzione giurisprudenziale, una prima disciplina di diritto sostanziale con diretta incidenza sulla stessa attività amministrativa. E il procedimento amministrativo viene visto in un'opera di Tetner che è l'Handbuch des österreichischen Administrativverfahren, pubblicato nel 1896, viene visto all'interno dell'elaborazione di questa amministrazione di garanzia, soprattutto. Il nodo concettuale è lo stesso della discrezionalità, mentre là il giuridico si estende alle clausole generali che guidano l'agire amministrativo, il pubblico interesse in primo luogo, nel procedimento la giuridicità si afferma contro la mancanza di forme proprie dell'agire amministrativo, nella delineazione di un processo decisionale da restituire al rilevante giuridico e da sottrarre alla libertà degli apparati. Il modello è orientato soprattutto alla realizzazione gesetzmäßig dell'interesse pubblico, con la trasposizione degli strumenti processuali e quindi della pubblicità anche all'interno dei modi di esternazione della volontà amministrativa. Cioè il procedimento viene costruito come istituto di garanzia. Il cerchio della legittimità si chiude soltanto se, per Tetner, soltanto se la pronuncia del diritto nel caso concreto, che contraddistingue il compito del giudice amministrativo, non si limita ad una verifica della legittimità dell'atto, del prodotto finale dell'azione degli apparati pubblici, ma la estende all'itinerario percorso dalla volontà amministrativa nel suo formarsi. Io spero si sia capito qualcosa, stante la velocità, eccetera, eccetera. Adesso arrivo alle ultime quattro pagine che ci terrei a leggere per non fare ulteriore confusione. Non ce la facciamo. Bene, allora andrò ancora più in fretta. 40 sono 20. Ah, benissimo. Semplicemente questo, mi preme sottolineare, mi sembra interessante questa riflessione della dottrina austriaca in relazione alla costruzione di un'amministrazione di garanzia che si lega a quest'idea di stato di diritto basata su questa unificazione tra giurisdizione e amministrazione, di conseguenza basata, come ha notato Lorenz von Stein, anche su un preciso modello giurisdizionale. Mi preme sottolineare come questa riflessione si leghi anche ad una consapevolezza abbastanza forte dei mutamenti delle attività amministrative e dei modi di formazione della volontà amministrativa. La critica di Tetzner alle posizioni di Bernatzik parte proprio dal fatto che è presente nella riflessione di Bernatzik un concetto di interesse pubblico che viene concepito come senza contenuto, cioè nel senso che il concetto di interesse pubblico sarebbe uguale per tutte le attività amministrative. E Tetzner cerca di mettere in evidenza invece come il concetto di interesse pubblico si differenzia. Mi sono dimenticato di dire una cosa. Il concetto di interesse pubblico in Bernatzik è senza contenuto e viene identificato soggettivamente, cioè qualsiasi cosa, sostanzialmente detta in soldoni, fa l'attività amministrativa, rappresenta l'interesse pubblico. Teoricamente questo si realizza poi nell'identificazione tra interesse pubblico e scopi dello Stato, che si trova in Mayer, ad esempio. Voglio dire, Tetzner invece parte proprio da questo fatto che non reggano questa identificazione, cioè questa identificazione soggettiva del concetto di interesse pubblico e questa mancanza di contenuto, perché mette in evidenza come all'interno dell'attività amministrativa vi sia una differenziazione e pluralizzazione del concetto di interesse pubblico, cioè soggettivamente si pluralizza e da un punto di vista contenutistico si differenzia. Difatti, dice Tetzner, l'espressione interesse pubblico si differenzia secondo lo scopo e il soggetto, e ad essa corrispondono contenuti determinati, cioè vi sono interessi dello Stato, dei lender, dei bezir, dei comuni, vi sono interessi sanitari, di polizia, fiscali, eccetera, eccetera. La riflessione di Tetzner diviene allora precisa, nel senso che la normativizzazione diventa parallela alla differenziazione e pluralizzazione dell'interesse pubblico, cui corrispondono una serie di conseguenze precise, nel senso che da un lato la scelta discrezionale acquisisce un senso preciso in relazione alla presenza di più interessi pubblici che l'autorità amministrativa deve prendere in considerazione quando deve decidere una serie di attività, e la decisione amministrativa si pone in relazione a questa diversità e contraddittorietà dei riferimenti normativi e non può più essere esclusivamente materia di decisione riservata all'autorità amministrativa, perché appunto l'interesse pubblico non può più essere considerato come isolato all'interno di un contesto sociale che prevede una serie di relazioni che toccano direttamente l'attività amministrativa. La discrezionalità, cioè, si lega, e teniamo presente, siamo alla fine dell'Ottocento, direttamente in Tetzner alla valutazione comparativa dell'interesse pubblico, o per meglio dire degli interessi pubblici. E cambia in questa prospettiva la funzione del procedimento. Il procedimento non appare più soltanto procedimento amministrativo, non appare più soltanto dettato da esigenze di garanzia, rendendo verificabile per il giudice l'attività amministrativa, ma si pone direttamente come mezzo di composizione dei diversi interessi pubblici. Cioè l'affermazione della pluralità e differenziazione degli interessi pubblici in concorrenza tra di loro si riflette nella necessità che la decisione avvenga sulla base del concorso di più punti di riferimento, spesso sotto il profilo organizzativo, espressi da soggetti differenziati, cioè da diversi uffici pubblici, emerga cioè dall'introduzione e presenza di ogni interesse che sia rilevante in ordine all'oggetto della volizione. Un'ultima citazione velocissima: il procedimento si pone per usare le parole di Tetzner, come sostrato per la comparazione tra i diversi interessi della comunità statale. Un'ultimissima cosa, la mia valigia pesantissima, dunque, un'ultimissima, sotto bravissimo, grazie, sono sudato. All'interno, dicevo, di questa valutazione comparativa degli interessi pubblici soprattutto, assume una rilevanza diretta il confronto con gli interessi privati. L'apertura del procedimento attraverso l'estensione, in primo luogo teorica, da parte di Tetzner del concetto di partai, del procedimento stesso a qualunque portatore di interessi si situa in primo luogo all'interno di una prospettiva di aumento del tasso di consensualità dell'attività amministrativa, di temperamento degli aspetti autoritativi ed in prospettiva dello scioglimento dell'opposizione tra autorità e consenso. L'intervento privato nel procedimento non si limita infatti alla difesa dei propri diritti, ma nei diversi ambiti di azione si pone sia come momento integrativo della volontà amministrativa, ad esempio nei procedimenti prescrittivi o precettivi, e andando più oltre anche come diretta collaborazione alla realizzazione di un fine pubblico, concessione e autorizzazione. E questo, a mio avviso, corrisponde, a questo ruolo del procedimento, corrisponde una processualizzazione dell'interesse pubblico e ad una caduta dei confini tra autorità e consenso. L'interesse pubblico si compone in questa ricostruzione e in queste proposta di introduzione del procedimento dietro l'indicazione normativa nel corso del procedimento.